noi intanto creiamo un po' di ambient qua per entrare nella selva, la cannona, ti lanci sul nostro pagliacate e ecco. Allora, la cumbia della Sinsurgente, sì, io non lascerei proprio scollella tutta, con tutto l'amore, insomma, poi sono brani che durano anche 5 minuti di uns, insomma, possono essere di un tormentone pazzesco con tutto l'amore che gli portiamo, rispetto che gli portiamo. Allora, Matteo, eravamo rimasti, ecco, proprio arrivati appena. Levantamento. Primo gennaio si prende San Cristobal e non solo. Si prende San Cristobal e non solo, e in particolar modo a San Cristobal de las Casas viene preso il palazzo municipale, il comune dal quale viene dichiarata guerra ufficialmente all'esercito messicano. I ribelli sono per la maggior parte indigeni e soprattutto di etnia Tzotzil, Tzeltal, Chol, Tocolaval, e gli zapatisti occupano militarmente, oltre a San Cristobal, anche diverse città chapaneche, per esempio Chanal, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano. Ad Altamirano, in particolar modo, gli zapatisti demoliscono letteralmente a martellate il palazzo municipale, cosa fighissima per quanto mi riguarda, appunto come simbolo dell'oppressione statale. E diverse carceri inoltre vengono aperte e si liberano tutti i prigionieri, quindi abbiamo oltre 200 detenuti completamente liberati, eccetto gli stupratori e i capi del narcotraffico, che invece si preferisce lasciarli dentro. A San Cristobal le Zeta rende pubblica la prima dichiarazione della Selva Lacandona, con la quale si invita il popolo del Messico a prendere le armi e a seguirli per marciare sulla capitale e prendere il potere. Il giorno dopo un gruppo di zapatisti si ritira da San Cristobal, rapisce l'ex governatore del Chiapas, Absalón Castellano Domínguez, proprio pezzo de merda, terrateniente, responsabile di oltre 150 omicidi politici, e quindi viene fatto prigioniero. Proprio in questo caso, appunto, le ostilità con l'esercito federale iniziano proprio con l'attacco armato che gli zapatisti fanno al quartier generale di Rancho Nuevo. Le ZLN e l'esercito governativo iniziano quindi a fronteggiarsi, 12 giorni di guerra molto cruenta, diversi scontri a fuoco che toccheranno il loro picco, diciamo, in termini di crudezza all'interno del mercato di Ocosingo, che sarà teatro di esecuzioni di massa da parte ovviamente dei militari ufficiali. La risposta mediatica che dà il governo invece, oltre a quella militare, contro gli zapatisti attraverso i media mainstream, diciamo, è più o meno sempre la solita solfa che a livello repressivo ci sentiamo ripetere, contestualizzandolo appunto in Chiapas, che ovvero comunque non si tratta di una sollevazione di indigeni, bensì si tratta di 200 insorti manipolati dai soliti professionisti della violenza. Ovviamente professionisti della violenza di origine straniera, perché non si è mai a conferire all'indigeno la capacità di concepirsi come soggetto politico e di sollevarsi in armi. E a questo punto, tra l'altro, gli altri ufficiali dell'esercito prevedono all'incirca 6 mesi per pacificare totalmente il Chiapas e bonificarlo dal germe della sovversione. Gli piacerebbe, sono passati più di 20 anni, comunque gli zapatisti fortunatamente sono ancora lì. E, come dicevamo, quindi gli zapatisti riescono con questa ribellione a portare i riflettori sul Chiapas. Diversi organismi internazionali per i diritti umani iniziano a denunciare l'esistenza di desaparecidos, di innumerevoli esecuzioni sommarie perpetrate dall'esercito anche sui civili. Quindi la gente inizia a prendere coscienza su quelle che erano le pesanti condizioni di vita del tessuto sociale indigeno in quest'angolo, fino allora l'angolo più dimenticato del Messico, possiamo dire. Gli zapatisti riescono quindi a creare questa breccia nel muro costante di disinformazione che viene creato rispetto invece a un Messico lindo e querido, meta di tanti bei viaggi turistici. Si arriva quindi a mostrare invece una realtà contro la quale si battono i zapatisti, una realtà che ci parla di uno stato, quello del Chiapas, dove la metà dei chiapanechi non dispone d'acqua potabile, dove il 90% degli abitanti dei campi e delle zone rurali viveva praticamente di nulla, di livelli di analfabetismo mostruosi, senza parlare della mortalità infantile. Quindi, e di nuovo a questo punto ci ritroviamo di fronte a un altro esempio, ne abbiamo visto qualcuno anche l'altra volta, di quanto gli zapatisti riescano sempre a non sclerotizzarsi mai e a riuscire invece a elaborare intelligentemente le diverse problematiche che di volta in volta si trovano ad affrontare, cercando sempre di ascoltare e di comprendere le esigenze di quella società civile che avevano chiamato a sollevarsi in armi con la prima dichiarazione della Selva Lacandona. Ora, magari nella prima dichiarazione della Selva Lacandona loro si rivolgono più al popolo del Messico, dalla seconda dichiarazione della Selva Lacandona in poi proprio entra nel gergo zapatista il termine della società civile, con la quale diciamo si intende di più i movimenti organizzati di sinistra non armati, diciamo, quindi un pochino diverso da come la potremmo intendere noi. Quindi gli zapatisti si erano detti: o la gente, la cosiddetta società civile, prende le armi e ci segue, oppure non ci appoggiano e moriamo tutti. Quindi si erano dati queste due opzioni, o l'una o l'altra. Con grande sorpresa di tutti, non si verifica nessuna di queste due ipotesi. La società civile li appoggia, ma non prende le armi. Si limitano a una serie di manifestazioni per richiedere il ritiro dell'esercito, che intanto era entrato nelle comunità e si stava macchiando di crimini mostruosi, sanguinari, massacri, villaggi bruciati, eccetera. La Z quindi a questo punto capisce che la società civile non è più quella di prima, è cambiata, il muro di Berlino non c'è più, i tempi sono diversi e se gli zapatisti vogliono continuare a sopravvivere devono quindi imparare ad ascoltare questa società civile e iniziare a dialogare con essa. Una società civile che preme, fa delle manifestazioni per bloccare il massacro degli indigeni, chiaramente, ma che preme affinché cessino le ostilità e si arrivi a un accordo tra le parti in guerra. Il 12 gennaio, sempre siamo nel 94, appunto, vi sarà una grande manifestazione oceanica nello Zocalo di Città del Messico per invocare un cessate il fuoco. Un cessate il fuoco, ovviamente, sempre dalla parte degli zapatisti. Lo slogan che andrà per la maggiore è: governo priista, il pueblo zapatista. Quindi si iniziano a creare questi spiragli di dialogo, il governo anche è portato dalla pressione popolare a tendere una mano a queste trattative, in particolar modo il vescovo di San Cristobal, Samuel Ruiz, molto vicino alle stanze degli indigeni e che rasenterà la scomunica da parte degli alti organi vaticani, diciamo avrebbero scomunicato se non fosse morto prima, viene proposto come mediatore da parte delle ZLN in questi accordi. Infatti, come segno, diciamo, di buona volontà da parte delle ZLN viene liberato Absalon Castellano dopo averlo condannato pubblicamente. In questo caso l'ex governatore dichiarerà sempre di essere stato trattato umanamente con grande dignità durante la sua prigionia nelle mani degli zapatisti. Iniziano questi accordi che però hanno vita breve, il clima politico è sempre più infuocato e si arriva all'omicidio di Donaldo Colosio. Colosio era candidato del PRI che era destinato a succedere a Salinas de Gortari e al suo posto sarà poi arriverà Ernesto Zedillo, sempre del PRI ovviamente, che sarà eletto presidente del Messico. Tra la morte di Colosio e l'elezione di Zedillo, le Z rompe totalmente le trattative col governo, si dichiara in stato di allerta, esce la seconda dichiarazione della Selva Lacandona, torna tra l'altro a riproporsi l'uso delle armi, e si chiama la Convenzione Nazionale Democratica, che porterà a un primo incontro internazionale in terra zapatista. La cosa molto importante da dire è che da qui in poi ogni dichiarazione della Selva Lacandona sarà accompagnata dal lancio di movimenti internazionali, di proposte politiche, corredati ognuno da incontri fatti in Chiapas con la comandanza, diciamo, delle ZLN. Si lanciano quindi movimenti quali appunto la Convenzione Nazionale Democratica, che abbiamo già citato, l'MLN, il Movimento di Liberazione Nazionale del 96, poi ci sarà il Frente Zapatista di Liberazione Nazionale nel 98, tutti i movimenti sicuramente molto importanti, che seminano grandi livelli di adesione internazionali a quella che è alla fine la causa zapatista, che ormai, diciamo, è presente nell'agenda dei movimenti anche occidentali, però che presentano questi movimenti lanciati dagli zapatisti anche delle contraddizioni che porteranno inevitabilmente, diciamo, alla loro fine e al superamento di queste contraddizioni attraverso il lancio della proposta politica successiva, fino ovviamente alla sesta, che è qualcosa di molto più grande e che trascende comunque i singoli movimenti in questione, che però avevano comunque a loro modo influenzato il pensiero e le politiche delle lotte sociali occidentali, che fino ad allora stavano vivendo una fase di torpore. L'internazionalismo torna prepotentemente all'interno dell'agenda dei movimenti europei, si inizia a riparlare di ritorno del fare lavoro politico nei territori e in particolar modo anche la critica molto forte alla quella che è la globalizzazione neoliberista, che poi porterà in un modo o nell'altro alle giornate di Seattle. E queste proprio tutte lotte e conflitti nei quali si attinge totalmente allo zapatismo, all'immaginario che aveva contribuito a creare, l'immaginario che poi alla fine ognuno declinerà anche a suo modo a seconda delle varie parrocchie di appartenenza. Però tornando a noi, tornando a Ernesto Zedillo, che diviene presidente del Messico, la prima cosa che fa è accusare di terrorismo la dirigenza zapatista. Viene tra l'altro esposto un mandato di comparizione per Rafael Sebastián Vincente, che era un ex ricercatore dell'UNAM che secondo l'intelligence messicana si nasconderebbe dietro il passamontagna chiamato Marcos. Le forze armate irrompono dentro le terre zapatiste, circondano le comunità e nell'Aguas Caliente di Guadalupe Tepeyac, tra l'altro, distruggono anche la sede della Convenzione Nazionale Democratica. La comandanza zapatista però riesce a fuggire e dal profondo della selva Lacandona, tramite un videomessaggio della comandante Ramona, riesce a inviare una richiesta di intervento immediato alla società civile. E quindi nuovamente grande mobilitazione popolare attraverso imponenti manifestazioni al grido di Todos Somos Marcos, che impongono una forte pressione politica nuovamente sul governo, che si vede di nuovo costretto a far retrocedere l'esercito, e si torna quindi a un periodo di trattativa che è dominato poi da quelli che saranno conosciuti come gli accordi di San Andrés. Siamo ormai nel 1996 e qui in questi accordi, diciamo, si stabiliscono delle proposte di riforma costituzionale in materia di autonomia indigena. Il governo firma gli accordi di San Andrés ma non li rispetta, quindi dal 96 al 2001 ci sarà tutta una campagna per esigere il rispetto e l'applicazione degli accordi di San Andrés. Tra l'altro poi nel 2000 il PRI perde le elezioni e le vince il PAN, il Partito di Azione Nazionale, cioè la destra ultraconservatrice, con Vincente Fox, che è niente poco di meno che il presidente della Coca-Cola Messico. Quindi, E questo si nota, devo dire. È una cosa che si nota, perché anche lì dove regna la casa di pizza de fango con la paglia sul tetto c'è un enorme manifesto di bianchi sorridenti, esatto, pieni di Coca-Cola. Che tra l'altro poi il suo motto è "Nunca más un México sin ustedes", mentre i zapatisti rivendicavano "Nunca más un México sin nosotros", quasi come se gli va a tendere una mano, no? Ancora oggi dice noi, il governo messicano ha compiuto con tutte le richieste zapatiste, ormai c'è autonomia, anzi sono esempio da seguire, eccetera eccetera. Poi comunque ci sono sempre paramilitari a soldati che rompono nelle comunità, tentativi di corruzione attraverso progetti economici per tentare di svuotare le organizzazioni dall'interno attraverso quella che magari possiamo chiamare una guerra combinata di sfiancamento. E quindi arriva questo signore di nome Vincente Fox e Sull'onda dei grandi movimenti poi del 2001 gli zapatisti organizzeranno la Marcia del Colore della Terra, che porterà oltre 1 milione di persone a Città del Messico per marciare sullo Zocalo. E qui nel 2001 appunto arriva questa legge in materia indigena, il PAN promulgherà questa legge che con i voti del PRI e anche del PRD, che sarebbe la cosiddetta sinistra istituzionale. Questa legge è estremamente ridicola, che sì, riconosce differenze culturali a livello folcloristico senza alcun riconoscimento politico, e quindi a questo punto i zapatisti dicono basta, da questo momento si rompe il dialogo con il governo, torna di nuovo a riproporsi anche l'uso delle armi nuovamente, la rottura con lo Stato, con qualsiasi tipo di partito o di istituzione è totale e dura fino ai giorni nostri, questo è importantissimo. E quindi da allora in poi, dicono gli zapatisti, l'autonomia ce la prendiamo da soli, ce la facciamo noi, e non vi saranno più trattative con alcun tipo di governo. Quegli 11 punti, quelle 11 richieste di cui avevamo parlato anche l'altra volta, che gli zapatisti avevano sbandierato da quel lontano 94, ovvero casa, terra, lavoro, pane, salute, educazione, indipendenza, democrazia, libertà, giustizia, pace, cultura e informazione, le ultime due sono suggerite dalla società civile, divengono da richieste, divengono degli obiettivi da perseguire dal basso a sinistra, al di fuori di qualsivoglia alveo istituzionale. Ci si inizia quindi a incamminare verso quello che sarà appunto il cammino dell'autonomia. Hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. La larga noche de los 500 años, ¿eh? A sentirlo così, ¿eh? Un titolino. Ya sigue. E quindi torniamo a parlare adesso del cuore dell'autonomia zapatista, appunto. Qui ci si inizia a dotare anche di mezzi di comunicazione autonomi e autogestiti, così come vengono autogestiti l'educazione e la salute, seguendo modelli alternativi, per esempio per quanto riguarda la sanità, legati ai saperi ancestrali della cultura maya, legati alla madre terra, al culto della madre terra e ai rimedi naturali, ma sono comunque anche muniti di laboratori, antibiotici, macchinari sempre più complessi, come quelli appunto per eseguire i pap test, tanto per non farsi mancare niente. In Messico vi è un regime di apartheid molto duro che grava sugli indigeni, sulla popolazione indigena. Se un indigeno va in ospedale per farsi una visita, per farsi curare, state certi che viene lasciato a morire in sala d'aspetto. E anche per questo che molti indigeni non zapatisti e magari affiliati ai partiti preferiscono andarsi a curare nelle cliniche autonome delle ZLN. Posso aggiungere che è successo anche di un sacco di donne zapatiste che hanno avuto dei problemi di parto, quindi non potevano partorire, si sono ricate nelle cliniche, non guarivano e hanno scoperto che dopo il parto gli avevano messo la spirale a loro insaputa, comunque le avevano rese sterili, gli avevano dato degli anticoncezionali, come per esempio la spirale, senza che loro lo sapessero. Questo è un po' il conflitto a bassa intensità. Non ti sparo in testa, ma ti consumo. Certamente, non ti faccio arrivare le medicine, ti estinguo. No? Il governo e lo Stato usano. Ovviamente ormai non ci si può nemmeno più permettere di chiamare gli zapatisti terroristi, tanto da giustificare la presenza dell'esercito nelle zone del Chiapas. Quindi le strade della repressione si fanno sempre più subdole e più viscide. Adesso le cliniche sono sempre più sviluppate, è più facile che magari le donne zapatiste riescano a partorire all'interno delle proprie cliniche autonome, che ovviamente stanno progredendo sempre di più. Come dicevo, adesso hanno anche i macchinari per fare il pap test, e gli indigeni non zapatisti che si vanno poi a curare le cliniche delle Z giustamente dovranno pagare anche una piccola sottoscrizione, mentre sono cliniche totalmente gratuite per i membri dell'organizzazione stessa. Così come è gratuito il sistema di educazione autonomo. Ogni comunità zapatista al giorno d'oggi deve avere una clinica autonoma e una scuola autonoma. Inoltre, lo zapatismo in Chiapas non ha una sua continuità territoriale. Vi sono comunità solo zapatiste, da paura quindi, ma anche comunità dove vi sono nuclei familiari che, al posto di fare riferimento al Marez, al municipio autonomo ribelle, fanno riferimento al municipio istituzionale, votano alle elezioni e mandano i figli alla scuola del malgoverno. Quindi magari in quella comunità ci sarà la scuola autonoma zapatista per i figli dei compagni, la scuola del governo ufficiale. E quindi qui ovviamente in queste comunità la convivenza è sicuramente più difficile rispetto alle comunità 100% zapatiste. Vi sono anche comunità nemmeno così miste, dove sono proprio tutti legati ai partiti politici, e c'è solo una sola famiglia zapatista, magari di 4 persone. E anche in questo caso ci deve comunque essere una scuola e una clinica autonoma. Magari il fratello maggiore farà da promotore di salute, la sorella farà da promotrice di educazione, autoformandosi con dei corsi di formazione nel Caracol, insegnando al fratellino minore le lezioni zapatiste, diciamo. Quindi questo cammino verso l'autonomia totale è un cammino lungo, tortuoso, dove si impara anche dai propri errori, diciamo è in continuo divenire. L'autogoverno è una continua sperimentazione che va via via perfezionandosi, in quanto non è nemmeno cristallizzato in una legge, in una costituzione, però è frutto costante dell'opera intelligente delle basi d'appoggio delle Z e delle N. Basi d'appoggio sono i militanti base dell'organizzazione zapatista, l'ossatura principale delle Z. Sono, per dirla in breve, sono i compagni e le compagne che vivono nelle comunità e che dal basso costruiscono ogni giorno l'altro mondo possibile. Altro mondo possibile che inizia appunto a nascere nel 2003 con quella che è la formazione dei Caracol. Il territorio zapatista è diviso in 5 zone che erano che dipendevano da Aguascalientes. Ogni zona aveva quindi il suo Aguascalientes di riferimento, dove risiedeva un comando militare zapatista che amministrava la comunità le comunità della propria zona. E a un certo punto si è notato che le comunità geograficamente più distanti dal centro politico e che non avevano il tempo magari di lasciare i campi per recarsi fino al comando militare, avevano imparato a risolversi da soli determinate questioni, determinate controversie, e si è visto che funzionavano molto meglio delle comunità che dipendevano maggiormente dalle decisioni del comando militare. Quindi da qui è nato un grande lavoro d'analisi da parte delle basi d'appoggio, che sono, ripeto, il motore principale dell'autonomia zapatista, che ha portato a decretare la fine degli Aguascalientes e la loro sostituzione con i Caracol, i centri politico-amministrativi attraverso cui si autogoverna la società zapatista. Quindi i comandi militari si ritirano per far spazio alle basi d'appoggio, che danno il via al vero e proprio autogoverno attraverso un fitto sistema assembleare molto complesso. Quindi tutto l'esercito, la parte armata delle ZLN si ritira nella selva lacandona con tutte le cariche militari, dagli insurgentes, che sono i soldati semplici, ai tenenti colonnelli fino ai comandanti, e con il solo scopo difensivo. Il loro compito sarà, da allora in poi, proteggere l'autonomia e le comunità. Abbiamo quindi al giorno d'oggi 5 Caracol, una zona. Sono Oventic, Morelia, Roberto Barrios, La Garrucia e La Realidad. In ogni zona, quindi, tot comunità fanno riferimento a un Marez, municipio autonomo ribelle zapatista, le cui autorità vengono elette a rotazione tra tutti i membri delle comunità zapatiste. Tot Marez faranno riferimento a un Caracol, per esempio al Caracol di Morelia. Dal Caracol di Morelia dipendono 3 municipi autonomi: municipio 17 di novembre, municipio Lucio Cabagna e il municipio Comandante Ramona. All'interno del Caracol risiede la giunta del buon governo, i cui membri sono eletti a rotazione tra le autorità municipali dei Marez, del Consiglio Autonomo dei Marez. La giunta del buon governo è in carica per 3 anni, i suoi membri non ricevono nessun tipo di salario, gli si passeranno giusto una parte di alimenti del lavoro delle terre collettive. Non vi è nessuna elezione, campagna elettorale. Le autorità che compongono la giunta vengono scelti in maniera assembleare nella società zapatista. Prima o poi, diciamo, tutti, ogni base d'appoggio dovrà ricoprire l'incarico politico. La società zapatista funziona anche proprio per questo, in quanto ognuno scusate, ha il proprio ruolo. Se poi, tra l'altro, questa è una cosa molto figa: se una giunta non fa il proprio dovere, la comunità, le comunità hanno il diritto, anzi il dovere, di destituirla e di eleggerne una nuova, per evitare appunto episodi di corruzione. Inoltre l'operato delle giunte viene sorvegliato e supervisionato da un'apposita giunta di vigilanza. Lo scopo della giunta del buon governo è quello di concretizzare, di mettere in pratica ciò che si è deciso nelle comunità, nelle assemblee delle comunità. Se la giunta è chiamata a risolvere una controversia, deve prendere una decisione, non può prenderla di sua iniziativa senza confrontarsi con le assemblee comunitarie, a cui comunque spetta l'ultima parola. Le decisioni devono essere orizzontali, collettive. Se la giunta decide una cosa, questa l'informazione della decisione presa che vorrebbe prendere la giunta magari viene riportata dal Caracol ai municipi, ai ribelli, attraverso dei responsabili regionali, e da lì vi saranno dei responsabili di comunità che riporteranno questa soluzione ipotizzata dalla giunta nelle assemblee comunitarie, che si riuniranno poi per confrontarsi su di essa. Se una o più comunità non sono d'accordo, allora la cosa non si fa, la giunta deve trovare un'altra soluzione, finché non si arriva a una quadra per consenso, diciamo, una quadra che bene o male magari mette tutti d'accordo e che non viene magari trovata dalla giunta in carica, però può venire anche da una comunità, magari dalla più semplice base d'appoggio, e se convince tutti, allora in quel caso la giunta si adopererà per metterla in pratica. Quindi è proprio la messa in pratica della volontà popolare, e è per questo che all'entrata dei Caracol campeggia sempre la scritta: a chi manda il pueblo y el gobierno obedece, qui comanda il popolo e il governo obbedisce, differentemente da quanto accade nelle nostre tanto osannate democrazie occidentali. Al di sopra poi delle giunte del buon governo, così come ai vertici dell'apparato militare zapatista della comandanza, c'è il Comitato Clandestino Rivoluzionario Indigeno, la SECRI, Comité Clandestino Rivoluzionario Indigeno, e il cui scopo è quello di supervisionare il lavoro dei Caracol, di indirizzare, lanciare input e magari elaborare proposte politiche. Una proposta politica che magari può essere la stesura della sesta o l'entrata in guerra, comunque anche questa proposta politica in questo caso deve tornare sempre alle comunità per essere discussa e approvata da tutti e da tutte. Il tutto deve essere vagliato da ogni singolo livello dell'organizzazione zapatista, e solo in caso di assenso tale proposta politica della SECRI può andare in porto. Nel 2005, che è una data molto importante per quanto riguarda la storia delle ZLN, vi è il lancio della sesta dichiarazione della Selva Lacandona, l'ultima dichiarazione della Selva Lacandona, con l'espressa volontà anche di costruire un programma di lotta nazionale a sinistra del capitalismo, e così inizia quello che sarà il cammino della otra campagna, in concomitanza poi con la campagna elettorale ufficiale che vedrà la vittoria di Felipe Calderón con chiarissimi brogli elettorali. La otra campagna invece porterà la comandanza a percorrere il Messico per presentare i contenuti della sesta dichiarazione, ascoltare la voce e le problematiche dei vari popoli indigeni in resistenza e delle lotte sociali, proprio appunto in vista di questo programma nazionale che si vuole scrivere insieme, in quanto le Z non si assume la responsabilità di scriverlo in favore degli altri. Ad aprile del 2006 c'è anche una tappa a San Salvador Atenco, dove c'è dove il Frente del Pueblo in resistenza in difesa della terra, si unisce agli zapatisti e aderisce alla sesta dichiarazione. Un mese dopo si farà sentire immancabile la vendetta dello Stato proprio ad Atenco, con una chiara provocazione che scatenerà una rivolta repressa brutalmente, con una violenza inaudita, con tanto di arresti e torture di massa, una sorta di Genova del 2001 moltiplicata per 3.000. Il messaggio quindi del governo è chiaro, è di pura violenza, e il destinatario di questo messaggio è chiaramente la sinistra sociale, e quella sinistra sociale che si riconosce nei contenuti della sesta dichiarazione della Selva Lacandona. Un messaggio che sarà chiaro anche con la terribile repressione che si abbatterà sui militanti della APO, l'Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca, città che era stata occupata e totalmente autogestita per 6 mesi. Questa repressione appunto mette fine alla comune di Oaxaca, appunto, e le forze di polizia irrompono e c'è questo ennesimo massacro, questo ennesimo esempio di macelleria messicana. E tra l'altro la comune di Oaxaca era partita proprio in risposta a un attacco brutale che la polizia aveva fatto a delle manifestazioni di maestri, che continuano a essere un soggetto in continua ribellione nello Stato messicano. E da lì in poi era stata cacciata la polizia, e si era arrivato a questo grande esperimento politico che è stata la comune di Oaxaca. La nuova fase delle ZLN, l'ultima, si apre il 21 dicembre del 2012, quando masnate all'occhi, fricchettoni vari ed eventuali accorrono in Messico per la supposta fine del mondo pronosticata dal calendario Yahoo. C'era l'altra alternativa di diossia alla tanto attesa rigenerazione dell'umanità. Ebbene, quel giorno, proprio in questa data fatidica, in cui tutti hanno gli occhi puntati verso il cielo, i Maya, i veri Maya, i discendenti dei Maya, marciano su cinque città ciapaneche: su San Cristobal de las Casas, su Altamirano, Ocosingo, Palenque e Las Margaritas. Quindi vi è quella che sarà la marcia silenziosa dei 40.000, questa manifestazione di 40.000 zapatisti che silenziosamente marciano per queste città e che rivendicano il fatto, come dire, i Maya siamo noi, non ce ne siamo andati e continueremo a restare qui e a lottare contro il capitalismo. Si arriva quindi al lancio della Sexta, un movimento che tende a ridefinire i rapporti tra le ZLN e i movimenti organizzati aderenti comunque ai principi enunciati dalla Sesta Dichiarazione della Selva Lacandona: cambiare il mondo in basso, a sinistra, senza partecipare a giochi elettorali. Una delle differenze, torniamo sempre a nuove elaborazioni, a nuovi mutamenti nella struttura, nel DNA delle ZLN, che hanno segnato la Sexta rispetto alle altre proposte politiche del passato lanciate dalle Z, è che diciamo non vi è stato nessun grande incontro internazionale con la comandanza, bensì vi è stata molto importante l'esperienza dell'Escuelita Zapatista, in cui sono state direttamente le comunità ad aprire le porte alla società civile, che si è ritrovata per la prima volta a interfacciarsi direttamente non con i subcomandanti ma con le basi d'appoggio delle ZLN nel corso La Libertà secondo gli Zapatisti, attraverso il quale si è avuto modo, si è avuta l'opportunità di toccare con mano il lavoro e i risultati dell'autonomia zapatista. Altro dato fondamentale è stato in seguito, per esempio, l'eliminazione per volere collettivo del personaggio Marcos, ormai giudicato inutile. Si legge in questo bellissimo comunicato di congedo che in fondo Marcos era solo uno spettro, un trucco, una sorta di specchietto per le allodole per i nemici, o un feticcio creato ad arte per tutta quella fetta di società civile che non riusciva a relazionarsi con un movimento indigeno senza riconoscersi in un leader carismatico, in un leader meticcio. E ormai siamo nel 2014, Marcos cessa di esistere, rinascendo in parte con altro ruolo come subcomandante insurgente galeano, nome di un compagno zapatista che era stato anche, tra l'altro, maestro dell'Escuelita, ucciso brutalmente mentre cercava di difendere il caracol della Realidad dall'attacco di un gruppo di paramilitari, mentre già da qualche mese il ruolo di portavoce ufficiale delle ZLN era passato al subcomandante insurgente Moises. Nel 2015, siamo proprio alla fine, si tiene al Sidesi Unidierra a San Cristóbal de las Casas il seminario tenuto dalla Commissione Sexta delle ZLN, il pensiero critico contro l'idra capitalista. Il seminario in questione sta girando sotto forma di testo, tra l'altro, anche in Italia, ed è a nostro avviso un testo molto importante, che restituisce anche a 360 gradi il pensiero e l'attualità del mondo zapatista. Ciò che si evince dalle oltre 300 pagine di questo testo, che riporta gli interventi, tra l'altro, del subcomandante Moises e del subcomandante Galeano al seminario, è che bisogna fondamentalmente prepararsi. Prepararsi perché è in arrivo una tormenta devastante e c'è l'estrema necessità, per fronteggiare questa tormenta, di tornare a fare analisi, capire la genesi del sistema capitalista, come sta mutando, e quindi capire se e come sviluppare altri percorsi di lotta in base a questi mutamenti. E questo testo è il frutto dell'analisi delle Z su questi argomenti e ci invitano praticamente a fare lo stesso, a moltiplicare i seminari e le analisi, condividendo poi con loro alla fine i risultati per capire come meglio attaccare possibilmente l'idra neoliberista. E un invito, insomma, a organizzarci, a resistere, nei nostri territori e a restare allerta prima che arrivi la tormenta e prima che sia troppo tardi. Escuchen señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, porque en China Meca fue muerto Mansalva Zapata, el gran sujeto. Abril de 1919, en la memoria quedará el campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Yala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapatón valiente. El buen Maniliano, que amaba a los pobres, quiso verles libertad. Por esto los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De contra esta Meca Meca, matándolo así en la juzgó. Con los pelones del viejo Don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de las Vegas de Morelos, y preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le diste Zapata a Don Pancho Madero cuando ya era gobernante. Maestro, dunque... No, diciamo che non so se vi rendete conto che quest'uomo in due ore praticamente vi ha fatto la storia del Messico, ecco. Mi è rimasto un po' più un goccio di saliva, però. Vabbè, c'ho due bottiglie d'acqua, oh. Per, diciamo, secondo me perché è l'acqua che ti fa male, comunque. Sì, infatti passeremo ad altro a breve. Io non so veramente come ringraziarti, tra l'altro io l'altra volta non ho messo la trasmissione sul sito perché le volevo mettere vicine, di modo che nello stesso file, di modo che si possano sentire insomma insieme. E che dire, allora, intanto che la schiena del sol non finisce qui, adesso perdiamo un altro po' di tempo se Dio vuole. E, allora, oltre a grazie, dirti che comunque ci sono le fiabe zapatiste che noi abbiamo fatto la settimana scorsa, che domani girano, no? Assolutamente, e infatti innanzitutto ringrazio Schiena del Sol e non mancherà di certo occasione per stare di fronte a questi microfoni, sperando magari per buone notizie. Eh sì. Episodi massacri, episodi di macelleria messicana. E ricordiamo che dal 23 al 26 si tiene il Festival del Fumetto Indipendente, il Crack, a Forte Prenestino, dove come nodo solidale saremo presenti con il nostro banchetto, il nostro infoshop di opuscoli sullo zapatismo, e come Kairos, casa editrice indipendente, Kairos Nodi Contemporanei, appunto, con le fiabe zapatiste e l'ultimo libro, l'ultima fermata per ricordare i 10 anni della morte di Renato Biagetti. Quindi ci troverete a Forte Prenestino e domani alle 21 ci sarà sempre Forte la presentazione, l'ennesima presentazione appunto delle fiabe zapatiste, questo libro appunto che raccoglie 12 racconti firmati dal subcomandante Marcos. Quindi insomma alle 9 quindi voi andate a Forte. Ascoltate le fiabe zapatiste, ve le comprate, ve le comprate perché gli opuscoli del nodo solidale, cioè comunque è un banchetto dove stampe, c'è tutto, molto fighe, nuove stampe, magliette, no? Quindi sì. E poi, siccome tanto a Crack ci potete tornare fino a domenica, sì, fino a domenica, quindi invece c'è una cosa che se ve perdete domani poi non c'è più. Venerdì 24 giugno al 360 gradi a Via degli Equi 57 a San Lorenzo, Scasso e Frente Cumbiero Romano a sostegno di Radio Onda Rossa. Gli Scasso ci regaleranno il concerto ma anche la presentazione del nuovo video del singolo Baghera, tratto dall'album in uscita. A seguire il Frente Cumbiero Romano vi corromperà con la cumbia in tutte le salse. Venerdì 24 giugno al 360 gradi a Via degli Equi 57 a San Lorenzo, Scasso e Frente Cumbiero Romano a sostegno di Radio Onda Rossa. Malaveri.